Capitolo 6. Il cucciolo del destino. Luglio 1949. L'estate è la stagione meno piacevole di Hong Kong. La luce cruda e violenta offusca la bellezza dell'isola e tutto appare sbiancato nel riflesso d'acciaio del mare e del cielo smunto. C'è troppa luce per vedere bene, troppo caldo per sentire il profumo della terra e troppa umidità per percepire i contorni delle cose. Per quanto ci si alzi presto, al fine di godere del ristoro dell'alba, non si vede altro che nubi e nebbia. Un paesaggio al latte cagliato lo chiamano i cinesi, poiché la nebbia e le nuvole si stendono come latte cagliato sulle colline e sul mare. Eppure c'è l'istante in cui la notte si ritrae per lasciar posto al giorno, ma è difficile scoprirlo, e sembra quindi che l'alba, il mattino e il giorno pieno, si fondano l'uno nell'altro. La lieve brezza mattutina aleggia debolmente sotto le nubi grigie accatastate sulla terra e sul mare, sfiora le foglie dei banani, sospira attraverso i casuarina, si insinua nel porto e gironzola intorno alle navi all'ancora, fasciate di una nebbiolina grigia sul mare di piombo. Verso est, dove ieri la portaerei ha gettato l'ancora, una striscia di un grigio più pallido e più luminoso si allarga lentamente, facendosi man mano bianca e opalescente come il ventre di un pesce. Ora le navi spiccano chiare, come segni di matita, sulla seta grigia dell'acqua. Dalla terra si distingue il fumo dei camini che sale in pigri anelli verso il cielo. Qua e là spunta un tetto, un muro. Si intravede il luccichio di una finestra. La portaerei, irsuto porcospino nero, è ora circondata da un alone rosato che si allarga sempre più. E il sole. Da un momento all'altro il silenzioso grigiore della notte diventa luce e gli uccelli sulle colline sembrano impazziti. La luce distende pennellate rosse sull'acqua, spazza la nebbia dalle colline verdi, rende le navi nere e rosse e bianche. L'ultima ragnatela di nubi scompare. Risuonano i clacson delle automobili e le sirene delle navi. Sbattono le pale dei traghetti, i tram scampanellano allegramente, le gazze si chiamano con impazienza, le cicale accordano il loro canto e tutto si anima e si affanna nel giorno che sorge. La mia camera all'ospedale è un forno, poiché le tubazioni dell'acqua calda passano sotto al pavimento. Gli scarafaggi prosperano, si battono in cruenti duelli e finiscono col lasciare le loro carcasse malconce fra i miei vestiti, dato che sembrano gradire il DDT e gli insetticidi in genere, li lascio stare. È passata una settimana dal mio ultimo pomeriggio di libertà e Mark mi telefona al mattino, prima che si cominci a operare. Forse dipenderà dal caldo e dal tempo, ma la vostra compagnia mi dà più piacere di ogni altra a Hong Kong. Forse dipenderà dal tempo, rispondo, ma mi fa piacere che desideriate rivedermi. Allora, posso venire per accompagnarvi ovunque andiate? È mercoledì, la vostra serata di libertà, giusto? Stiamo ponendo le pietre miliari della strada che finirà con l'unirci. Lo volete davvero? Chiedo. Lo sento esitare un attimo dall'altra parte del filo. Sì, lo voglio davvero, mi risponde infine. Non significa nulla, certo, eppure mi sento improvvisamente allegra. Sento, e con quanta intensità, il ricevitore che stringo fra le dita, il pavimento sconnesso della stanza sotto i miei piedi. La testa mi gira leggermente. Amici cinesi di Shanghai mi hanno invitato a cena con mia figlia. Rispondo, potete accompagnarci fino al traghetto? Abitano a Kowloon, di fronte al porto. Avrei dovuto aspettarmelo. Ma gli occhi e gli orecchi del mio cuore sono chiusi e non voglio sapere. Fortunatamente sono morta e nulla mi può accadere. Questo è il primo uomo col quale desidero parlare e voglio rivederlo. Ci aspettava ai piedi della scalinata. Dietro di lui c'era il mare, un mare che cantava a gola spiegata, con comunicativa baldanza. Ugualmente azzurri erano i suoi occhi e la ghiaia del viale scintillava d'oro. Che cos'è una isterectomia? Mi chiese Mark. Ho letto tutti gli annunci chirurgici. Montammo nella Morris che egli aveva preso a prestito e gli presentai mia figlia May. E di nuovo scendemmo lungo Pokfulum Road, svoltando poi a sinistra attraverso il gaio brusio dei negozi cinesi del rione Saing Pu, oltre al teatro dell'opera, per sboccare infine sulla praia. A quell'ora la praia era brulicante, affollata di giunche sull'acqua e di vagoncini, autocarri e macchine sulla banchina, rauca di stentore e voci cantonesi, irrequieta, di piedi strascicati e di clacson. Il viso di Marca appariva felice. «Come tutto è vivo!» esclamò. Rallentammo per osservare le ceste colme di uova di anatra che venivano caricate sulle giunche per essere inviate a Manila. Due portatori che reggevano sulla spalla una lunga canna di bambù, in mezzo alla quale stava sospeso un cesto di pesci guizzanti, avanzavano trotterellando, facendosi largo con rauche grida. Cappelli conici di paglia intrecciata, dipinti con vernice verde impermeabile, infilati l'uno nell'altro come scodelle, attendevano di venire scaricati da un autocarro. Chini sotto il peso, alcuni uomini scaricavano sacchi di farina da una giunca con due grandi occhi azzurri incisi sulla prua e consegnavano la bacchetta di controllo a un funzionario che vi incideva una nuova tacca per ogni sacco. C'erano casse di zuppa di pollo americana, cassette di arance Sunkist, scatole con la scritta Made in England, Made in USA, Made in Norway, Made in China, e in mezzo a tutto questo tramestio, uomini e donne cantonesi, agili nelle loro vesti nere, si arrampicavano sulle barche, spingevano cassette, avviavano motori, sempre urlando per farsi strada. Numerosi bimbi laceri e solenni, miracolosamente immuni dagli urtoni e dai pericoli e indifferenti al frastuono, mangiavano tranquillamente le loro tazze di riso, aiutandosi con i bastoncini. Tutto veniva sbrigato con rapidità in mezzo all'apparente confusione e l'acqua mormorava dolcemente contro la banchina, accarezzando i fianchi delle giunche. Bello, fantastico e così vivo, ripeteva Mark. Il traffico andava a rilento e noi ci trovavamo chiusi in una processione di molti veicoli quando la macchina che ci stava davanti svoltò improvvisamente a destra con la disinvoltura propria agli autisti di Hong Kong e un piccolo cucciolo focato balzò fulmineo da una giunca alla nostra sinistra portandosi davanti alle nostre ruote. Alla frenata immediata di Mark seguì un putiferio di grida, di tonfi, di stridii, di freni. Il primo rumore, accompagnato da un violento urto della nostra macchina, fu come un'esplosione, mentre l'ultimo della serie mi giunse all'orecchio come un lontano brontolio di tuono dietro alla collina. «Oh!» esclamò Mark. «Credo che sia successo qualcosa!» Un giovane inglese magro, in divisa khaki, con spalline nere e cinturone di cuoio, comparve improvvisamente alla nostra destra, gridando e gesticolando. Evidentemente molto soddisfatto di sé e di quanto era accaduto, prese a parlare in discreto cantonese. «Oh, cielo!» ripeté Mark, pur non dando segni di particolare emozione. «È veramente terribile. Mi dispiace di avervi combinato questo guaio. Terribile, veramente terribile!» «Oh, non preoccupatevi», lo rassicurai. «Trovo la cosa molto divertente. Quando si è attraversata la Cina in macchine guidate da maniaci omicidi e Londra in automobili del corpo diplomatico che ignorano i semafori rossi, si finisce col diventare incoscienti». Una folla di uomini, di donne e di bambini di ogni età riempiva lo spazio alla mia sinistra tra la macchina e il mare, impedendo la vista del roseo tramonto sulle colline di Kowloon. Il giovane inglese correva avanti e indietro, ritornando di tanto in tanto a urlare rumorose spiegazioni all'orecchio di Mark. May ed io, completamente indifferenti al momentaneo contrattempo, sedevamo tranquille a guardare i curiosi che ricambiavano il nostro sguardo con altrettanta indifferenza. Mark scese di macchina per constatare il danno causato e ritornò piuttosto agitato. «Oh cielo! Almeno sei automobili dietro di noi sono finite una dentro l'altra. Questo agente si trovava in una camionetta, la terza della fila, e ora dice che devo andare con lui alla stazione di polizia. Mi ci vorranno ore. Mi dispiace proprio, un grosso pasticcio. Ma no, obiettai, non comprendendo questa sua mentalità europea nei riguardi del traffico. Non è affatto un pasticcio, nessuno è morto, nemmeno il cucciolo. Mark mi lanciò un'occhiata, poi distorse il viso e disse con voce incolore: È bello essere con una persona calma come voi. Mi distende i nervi. May mi tirò per il braccio. Ora andrà in prigione? Chiese ad alta voce con evidente speranza e prese a fissare Mark con profondo interesse. Può darsi, risposi per farle piacere. Scendemmo dall'auto a fatica, poiché la folla aveva ormai assunto proporzioni da grave incidente e premeva contro gli sportelli. Un momento, mi trattenne Mark. Scese a sua volta, cavò la pipa di tasca e la riempì. La folla ondeggiava intorno a lui, guardò il cielo e poi me. Ricordate che l'ultima volta che ci vedemmo parlammo del destino? Mi chiese. Non credete per caso che noi due si possa avere un certo destino in comune? Che domanda deliziosa e assurda da pormi in quel momento, in mezzo all'enorme folla sulla praia, con tutte quelle macchine schiacciate come una fisarmonica e un camioncino carico di bottiglie di aranciata a chiusura della fila. Alzai verso di lui il mio viso ridente, intenerita e divertita, pensando che avesse parlato per scherzo. Oh no, risposi, sono sicura, sicurissima che non abbiamo alcun destino in comune. Capitolo 7. Shanghai, luglio 1949. La stazione ferroviaria di Kowloon, la sede dell'Associazione Giovanile Cristiana, il Peninsula Hotel con la sua fontana polverosa e i suoi gerani. Mei ed io ci dirigiamo verso l'appartamento dei miei amici mentre l'azzurro crepuscolo inonda le strade, precursore della pesante pennellata della notte. Un istante prima ancor chiari e distinti, gli oggetti sono ora offuscati. Il colore scompare, il volume e le dimensioni cambiano. Le distanze ingannano. Dalle case monotone spuntano improvvisamente centinaia di finestre lucenti. Mi piace questo istante mobile, questo fluido passaggio in un altro mondo, perché dopo di esso il cuore si sente più leggero e il corpo si abbandona. La notte calda diffonde sicurezza, come se nella profonda fessura di velluto dell'oscurità la paura si fosse addormentata. Simili a fiori notturni, i visi si aprono e lo spirito dell'uomo, nascosto nel corpo, si azzarda a far capolino nella tranquilla oscurità come un diffidente ragno marino dalla sua conchiglia. Come tutti gli appartamenti dei miei amici cinesi di Shanghai, anche quello di Robert e Nora Hang è scintillante di luci al neone di mobili moderni. C'è, naturalmente, il condizionatore d'aria, oltre a due radio e un frigorifero. Alcuni di quelli venuti da Shanghai sono ricchi, altri addirittura ricchissimi, e da che Shanghai è caduta, tutti i ricchi sono qui. Sui muri pendono vecchi quadri e fotografie di amici, tappeti di Pechino ricoprono il pavimento. Robert è felice di aver potuto salvare qualcosa della sua casa di Shanghai. Si vendono preziosi ricami per una bazzecola, dice. Rarissimi libri antichi si comprano a peso. Nessuno sa più che farne ora. Quando penso alla mia bella casa, continua, mi sento molto triste, non per la perdita materiale, ma perché vi siamo stati tanto felici e a tutti i nostri amici piaceva tanto. Chi ne ha cura ora? I miei servi, che sono con noi da anni, hanno voluto rimanere appunto per badare alle nostre cose e in seguito si vedrà. Compare Nora in abito di seta azzurro pallido. È così bella che devo ripeterlo ogni volta che la vedo. Le sue mani sono veramente eccezionali, quasi inumane nella loro perfezione. Mi fanno pensare a orchidee, magnolie e salici. Le dita si incurvano come quelle di una danzatrice siamese e sembrano fluttuare leggere quando lei muove una mano parlando. Mi ipnotizzano e spesso mi capita di rimanere a parlare del più e del meno per un paio d'ore, unicamente per avere la possibilità di ammirarle. Sebbene Nora sia bellissima, le sue mani lo sono ancora di più e sembra quasi che ella esista soltanto per portare alle braccia d'avorio tale delicata meraviglia. Come state, Nora? le chiedo, come va l'orticaria? Noi cinesi riconosciamo l'inevitabile pecca della nostra Costituzione, la piccola imperfezione che ci rende e ci mantiene umani, invece di lasciare che si critichino alle nostre spalle i nostri difetti fisici e mentali, ne discutiamo apertamente con gli amici senza sciocchi pudori. Nora soffre di allergia, la malattia di moda. Oh, sto molto meglio grazie al mio nuovo medico, mi risponde. Il mio vecchio dottore FK è morto la scorsa settimana e non sapevo più a chi rivolgermi. 10 giorni fa, a un cocktail dei Palmer Jones, avevo mangiato senza accorgermene un minuscolo pezzetto di gambero nascosto nell'insalata. Ero gonfia dappertutto e ho veramente creduto di morire. Ho telefonato a FK, ma la sua amah mi ha fatto sapere che era molto ammalato e non poteva vedere nessuno. Come? Neppure me? Ho protestato. Anch'io sono molto ammalata. Fortunatamente sono riuscita a pescare un altro medico, uno specialista di Boston, perché FK è morto il giorno dopo. Immaginate che sarebbe stato di me se non avessi trovato nessuno. Il nuovo medico mi ha ordinato delle iniezioni meravigliose, che mi hanno fatto molto bene. Ora non mi rimane che un pochino di prurito dietro le orecchie. Siete molto fortunata, Nora. È molto caro, però, ma naturalmente si tratta di uno specialista. Circoliamo fra i tavoli di bridge e di mahjong, sparsi per la sala e il salotto dove uomini e donne eleganti giocano, fumano, si sventolano, parlano e ridono. Com'è facile e tranquilla la vita. Siamo tutti profughi. Alcuni hanno perduto le loro case e altri non torneranno mai in patria, ma non è il caso di farne una tragedia, poiché la buona e la cattiva sorte si alternano sempre e per il momento si sta benissimo a Hong Kong. Disponendo di un capitale è possibile raddoppiarlo e persino triplicarlo in soli 3 mesi. In un angolo, un piccolo gruppo ascolta un ometto dall'aria mite e sognante che narra come sua moglie sia annegata l'anno precedente quando i pirati hanno attaccato il battello di Macao. Ha 7 figli, di cui il più piccolo di soli 4 anni. Racconta dei presentimenti avuti da sua madre e di come la bambinaia del piccolo abbia urlato nel sonno la notte prima dell'attacco, sognando di essere strangolata da 2 diavoli dagli occhi verdi. E parla del gorgoglio dell'acqua che gli ha riempito gli orecchi al risveglio quel mattino fatale. Un altro gruppo discute sul prezzo dei passaporti e dei visti. A Hong Kong e a Macao sono in vendita passaporti per chiunque li possa pagare. E ciò sebbene il Kuomintang minacci di punire severamente coloro che ne usufruiscono. Il Sud non può resistere. I comunisti hanno attraversato lo Yangtze contro ogni previsione, poiché non disponevano di barche. La loro ingegnosità stimola la nostra ammirazione. Hanno usato zattere costruite con fasci di steli di riso, 3 per ogni uomo. Il Sud America è un luogo sicuro. Vi consiglio di mandarvi il vostro denaro. Fra qualche mese andrò a New York. Al momento Hong Kong è un posto ideale per chi ha denaro. Gli affari prosperano e gli affari sono la vita stessa di Hong Kong. I grossi commercianti di lunga esperienza, inglesi e cinesi, non si lasciano prendere dal panico, tengono duro in attesa che tutto si risolva e che il cielo si schiarisca. Che importanza può avere il credo politico di una nazione quando questo non incide sui suoi rapporti commerciali? Non ci siamo mai rifiutati di commerciare con nessuno, è l'invariabile commento alla situazione dell'uomo di affari di Hong Kong. Se Hong Kong cade, dove andrete, Nora? Sono stanca di girare, risponde Nora. Prima dell'ultima guerra, Nanking, Hankou, Chongqing, e poi di nuovo Nanking, e infine Shanghai, e ora Hong Kong. Adesso il governo è a Canton. Ma suppongo che dovrà ritornare a Chongqing prima o poi, dice Robert. Povero governo. Povera Chongqing, ribatto io. E ridiamo tutti. Robert guarda Nora. Sono sposati da 20 anni, ma dietro agli occhiali cerchiati di tartaruga il suo sguardo rivela ancora l'amore che ha per lei. Alla vita non chiedevamo altro che una bella casa e un po' di pace, dice. Abbiamo avuto 12 case, ma ben poca pace. Avrei voluto essere medico come voi, ma avevo 3 fratelli minori a cui pensare e ho dovuto dedicarmi agli affari. Ormai la mia vita è passata e so che non sarò mai medico. Una nube momentanea passa sul suo volto, ma ben presto il sorriso ritorna. Saresti stato un pessimo medico, osserva Nora. La tua salute ti preoccupa troppo. Si ride. Io ho sempre desiderato essere medico, dico io. Alla fine dell'anno, quando il mio impegno con l'ospedale sarà scaduto, ritornerò in Cina. Nessuno ha obiezioni da farmi. Quando si è medici tutto è diverso. I comunisti trattano bene i medici perché ne hanno bisogno. Ma quanto agli uomini d'affari, è un altro paio di maniche. Vorrei parlare seriamente con Robert. Molti di voi di Shanghai stanno investendo i loro capitali a Hong Kong, gli dico. Ma evidentemente Robert non desidera approfondire l'argomento. Guardate tutti i nuovi palazzi che stanno sorgendo, risponde. È possibile comprare un appezzamento e fabbricarci sopra con 2 lax e dopo 2 mesi rivendere il tutto per 4 lax. Anche le fabbriche costituiscono un ottimo investimento. In 2 mesi si raddoppia il capitale. Credete davvero che Hong Kong sia sicura? Gli inglesi mi sembrano un po' nervosi. Oh, lo sono sempre. Devono esserlo per poter salvare la faccia. Tuttavia, io credo che Hong Kong sia sicura perché non può essere difesa. Gli inglesi sostengono il contrario. Stanno sbarcandovi truppe e costruendo fortificazioni. Quanto alla nuova rete di stazioni di polizia che intendono costruire, costerà un monte di denaro. Certo. E comunque non saprei cosa dirvi. Personalmente non credo che i comunisti dureranno molto. Non sono abbastanza cinesi. Ma anche se vinceranno, non invaderanno Hong Kong. E perché dovrebbero farlo? A loro non serve. Se poi finissero col volerla, accadrà, naturalmente, dall'interno. E tutta questa difesa non servirà a nulla. Naturalmente, soggiunge Robert. È anche questione di prestigio. Se i comunisti dovessero attaccare, può darsi che gli inglesi difendano Hong Kong. Oh, certo, annuisce il giovane Mr. Luck, che ha udito soltanto l'ultima frase. L'Inghilterra combatterà per noi. Lo guardiamo entrambi come se avesse detto una cosa straordinaria. Egli è cinese di Hong Kong. Beh, conclude Robert, deciso a passare a discorsi più allegri. Ora stiamo vivendo un momento di prosperità. Noi di Shanghai cambieremo Hong Kong e cercheremo di renderla più brillante. Vedo la mia amica Maya Wong e le faccio un cenno di saluto. 20 anni fa a Pechino frequentavamo la stessa scuola. Ha 3 bambini a Shanghai, affidati alla suocera. Il marito è morto di tubercolosi l'anno scorso. È venuta a Hong Kong per guadagnare un po' di denaro e si è impiegata come segretaria in un'azienda privata. Quando torni in Cina? Mi chiede. Alla fine dell'anno. Meglio rimanere qui. Finiranno con l'imbottirti la testa delle loro dottrine. Oh, ho già la testa imbottita di medicina e non mi interesso di politica. Inoltre, spero che i comunisti agiranno per il bene del popolo. E tua figlia? Ti piacerebbe che diventasse comunista? Non voglio che diventi una cinese bianca, senza patria. Nulla mi trattiene a Hong Kong, mentre tutto mi spinge verso la Cina, persino mia figlia. Rincasiamo nella notte. Il cielo è fitto di stelle. Dal traghetto seguo il lento e pesante avanzare della luna sulle colline avvolte dal buio. L'isola di fronte a noi è disseminata di migliaia di piccole luci e ora l'acqua, lungo il molo, sembra viva. Di schegge rosse e verdi, riflessi spezzettati delle insegne al neon della praia. May mi scuote. Credi che Mr. Elliot sia in prigione? Niente le farebbe più piacere. Può darsi, rispondo. Ritorniamo all'ospedale in taxi. E prima di addormentarmi, il mio ultimo pensiero è Mark. Quell'uomo ha bisogno di un'avventura d'amore, penso, senza saperne il perché.